dagli studi KXCT ve l'avevamo promesso, ci è arrivato il mixer e sentite la musichetta di sottofondo che sfuma. Infatti abbiamo fatto aspettare il povero Dark Reaper per una buona ora. Siamo qua e lui è già collegato e lo tiriamo in trasmissione. Eccoci, ci senti? Ciao a tutti, io sono Dark Reaper e sono qui, sono vostro ospite in questa magnifica trasmissione radiofonica podcast. Di la verità che sei parziale per forza, perché stasera presenti Games Blog. Sono assolutamente parziale, come ci facciamo volentieri questa automarchetta sgamata. Mi fa piacere che sia assolutamente alla luce del sole, insomma. Prima, mentre provavamo i livelli, ci dicevi che fai trasmissioni in streaming, fai quelle di Macchia Nera, immagino. E sì. Quindi sei un professionista ormai. Non pensavo, in realtà uno ci fa il callo, si diventa abbastanza bravi. Io una mia trasmissione si chiama Ultracorpo e niente, in realtà si mette molta musica, ogni tanto si cerca di leggere qualche brano di libri di vario genere, insomma, si cerca di un po' di alzare il livello medio della radio online. E ovviamente si mette un sacco di musica di ogni genere. Io ti passo subito la palla a Marco, che penso sia lui con cui ti sei sentito di più in questo periodo, e ci fa magari una breve presentazione di Games Blog, oppure la lascia fare a te, non lo so, gli passo il microfono. Ma sì, penso che l'ideale sarebbe se tu da Creeper ci potessi presentare un po' Games Blog e magari anche parlare della tua passione dei giochi. Va bene, io allora comincio, comincio da lontano, nel senso che l'idea di aprire un blog sui videogiochi mi era già venuta e ho visto un po' come un segnale del cielo questa cosa del vostro blog, un tweet, quindi mi è stata segnalata, vi ho subito scritto, perché l'idea di fare un blog sui videogiochi l'avevo già avuta, visto che non esiste in Italia, non esistono blog sui videogiochi in Italia, non esistono alternative italiane a tutta una serie di siti e di blog molto famosi americani, per esempio Kotaku.net, comunque Joystick, che è un po' il cugino del famoso Engaged e che è altrettanto interessante, altrettanto scritto bene. E io volevo fare questa cosa, però non volevo farla in maniera differente da come la fanno gli americani, che si concentrano molto sull'aspetto, diciamo, della news. Io volevo fondere l'aspetto news a un aspetto più, diciamo, di cultura del videogioco, di tutta una serie di aspetti che in Italia sono arrivati da poco. C'è una bella rivista, che è una storica rivista inglese chiamata Edge, che è da poco arrivata in Italia col nome di videogiochi, e nel mio piccolo io volevo fare una cosa del genere. E quindi niente, stavo per cominciare, poi ho appena finito il template, 2 giorni di lavoro, e poi siete comparsi voi, e niente, mi sono proposto per questo Games Blog, che è sicuramente più news, ma comunque in cui mi piacerebbe ogni tanto parlare proprio del videogioco, parlare dei giocatori, perché comunque c'è anche un aspetto di... c'è anche molto da parlare del videogiocatore, secondo me. Si parla poco, si parla molto dei giochi e poco di come vengono, insomma, di come li metabolizziamo, di come li interpretiamo, di come li percepiamo. Non so, adesso sembra il discorso di un pazzo, mi rendo conto, però tutto questo ha un senso. Voglio dire agli ascoltatori di Quiz che c'è un senso in tutto ciò. Non te la prendi male se ti faccio una domanda forse un po' scontata? Hai l'accento di Napoli? Sei assolutamente napoletano, e ha qualcosa a che fare il tuo essere napoletano con questo atteggiamento più umanista o umano verso i videogiochi e meno tecnico, scientifico, razionale? Ma guarda, io sono assolutamente un umanista, io mi sono avvicinato al mondo dei computer con un'Amiga 500 che non mentiamoci, era una console, era qualcosa per giocare. Qua di fianco c'è qualcuno che ha stretto il pugno come fare Ale, perché è un altro amighista storico, Marco. Io ho cominciato, io adesso, io ho 21 anni, ho cominciato a giocare con l'Amiga che ne avrò avuto 11-12, e quello non era un computer, era qualcosa di differente, non era una console, ma era qualcosa per giocare. E secondo me questo è qualcosa che ha formato tutta una serie di giocatori. L'Amiga sicuramente è stata una, anche perché poi parlando con altre persone anche che non considero giocatori, ci sono tutta una serie di esperienze in comune rispetto all'Amiga, come per esempio Civilization, che è un po' è uno spartiacque generazionale, come posso dire. Quindi c'è sicuramente, io la vedo da giocatore, non ho l'aspetto, diciamo, scientifico la vedo dal lato del giocatore assolutamente puro, senza l'aspetto di conoscenza dell'informatica o del computer. Io sono un umanista, ho studiato e studio, io studio cinema. Vedo il tutto da un'ottica che è differente, semmai, da quella anche del giornalista specializzato, secondo me. Ma il tuo studio del cinema ti porta ad avere più attenzione per le trame, le scenografie dei videogiochi oppure no? Cioè, te ne accorgi? Sì, guarda, abbastanza, nel senso che ultimamente è una cosa che si dice, cioè che il cinema dovrebbe imparare dai videogiochi, e io di questo sono assolutamente convinto, cioè io credo che si debba studiare di più anche i videogiochi rispetto al cinema, rispetto a quelle che sono anche le caratteristiche del mezzo videogame, del mezzo cinema, cioè, di quello che il videogioco, delle potenzialità che il videogioco ha, Poi che torniamo su. sono, No, scusa, finisci. che, insomma, sono assolutamente inespresse per ora. Ci sono giochi come, c'è addirittura un'autorialità nel videogioco, qualcosa che sta emergendo che per me è una rivoluzione, insomma, qualcosa che da cinefilo, da lettore trovo incredibile che nel videogioco nascano delle autorialità, nascono dei registi e degli autori. Dopo torniamo alle domande serie, ma qual è allora, visto che siamo in tema, il videogioco più cinemoso, il film più videogiocoso di quest'anno o degli ultimi anni? Guarda, sicuramente io adesso non ho ancora provato l'ultimo, però io credo che i picchi raggiunti da Metal Gear Solid 2 sono assolutamente insuperabili. Adesso è appena uscito Snake Eater, che è il seguito, che mi immagino sarà altrettanto cinematico, e oltretutto lì c'è una storia, qualcosa che per esempio in molto cinema manca, e allora tu poi trovi un film che vengono definiti dei fumettoni o dei videogames, che sono assolutamente nulla come trama, come idee, anche scenografiche. E quasi viene usato, appunto, cioè noi usiamo quando vogliamo dire un brutto film d'azione, diciamo è un videogame o un fumetto. Beh, adesso Questo ti chiedo se ti è piaciuto Yorobo. Yorobo l'ho ampiamente evitato, un po' perché non amo particolarmente Asimov, un po' perché insomma c'erano i trailer, non sembrava una brutta copia di come si chiama, del film di Spielberg tratto da Dick, di cui adesso non ricordo il nome, quello con Tom Cruise, insomma. E quindi me lo sono evitato ogni tanto, non c'è bisogno di vedere tutti i film, No, diciamoci la perché verità. io l'ho trovato abbastanza, vabbè, come ritmo sicuramente abbastanza da videogioco, però non mi è dispiaciuto. Cioè, io non so, io per esempio una cosa che farei assolutamente, e in cui cercherò di fare sul blog, è consigliare dei buoni videogame, nel senso Vabbè, di immagino. videogame che possono essere migliori del cinema. E allora, per esempio, un Max Payne, un Metal Gear Solid, dimostrano che c'è, capito, che c'è, si va addirittura oltre il cinema. E a me questa cosa, da studente di cinema, mi interessa molto, mi affascina. Cioè, per me ci sono alcuni che considerano il videogioco sia diventato un'arte o sia sempre stata un'arte. Io comincio a essere abbastanza persuaso della cosa, perché si sta arrivando in quella direzione, insomma. Adesso porto il terreno sull'unica mia esperienza di videogioco un po' intensa. Quindi facendo un parallelo un po' azzardato, possiamo dire che videogiochi come Ultima Online sono una specie di cinema creato dalle masse che si fa man mano che il gioco va avanti e che la gente partecipa. Guarda, in potenza sì, nel senso che loro all'inizio è quello che secondo me avevano in mente, visto che Ultima Online, anche io ho giocato, nasce dai Mathias Dungeon, che erano vere e proprie avventure testuali di gruppo. E l'idea di una narrazione di massa è interessante. Bisognerebbe, diciamo, ampliare il discorso. Appunto, le software house dovrebbero ampliare il discorso, visto che, diciamo, si va più verso Diablo 2 che verso la narrazione. Nei giochi di ruolo online c'è un bel gioco di ruolo online che è World of Warcraft, che è un gioco abbastanza, diciamo, direi ignorante, nel senso di abbastanza, come posso dire, tamarro, che non toglie che è un brutto gioco, non dico che è un brutto gioco, però è qualcosa di differente. Ultima Online, per esempio, aveva un buon livello di profondità. Io ci ho giocato tante, mi ci sono perso per quasi 2 anni. Infatti, qua c'era Francesco che mi diceva di chiederti un po' più di spiegazioni e di espandere un po' questo argomento, ma io penso di averlo capito bene. Cioè, dentro una delle cose più affascinanti di Ultima Online è che dava la possibilità a tutti i giocatori di creare delle storie, di creare appunto le gilde, di creare rivalità, creare scenari, di appassionarsi a personaggi, di recitare e. Mi sembra che tu stessi dicendo che in realtà si va più verso un videogioco, tu l'hai definito tamarro, ma forse che dà meno la possibilità di creare e interagisce molto più a livello di non so, forse di combattimento, di storia predefinita, eccetera, questo che volevi dire? Sì, anche se poi anche nel gioco online eccezioni ovviamente ce ne sono sempre, cioè non credo ci siano dei percorsi fissati nell'evoluzione del videogame. Il videogame è molto dinamico e anche secondo me stupefacente, per cui per esempio tu trovi World of Warcraft, che è sicuramente un ottimo gioco, molto ben bilanciato così, ma che ha tutta questa serie di... È proprio una filosofia di gioco, è differente. Poi, per esempio, c'è un Second Life che invece è profondamente diverso e di cui prima o poi mi piacerebbe parlare, che invece è un gioco di totale libertà rispetto al giocatore, ma di totale creazione del mondo, il mondo nelle mani dei giocatori, la società che crea Second Life mette a disposizione il server e poi il mondo se lo creano i giocatori da zero. Che mi sembra una cosa di una potenza proprio incredibile, visto che è assolutamente inconcepibile dove può finire un concetto del genere. E quindi c'è tutto nel mondo dei videogiochi, non ci sono, tutte le strade sono percorse e percorribili, questo è anche il bello anche di seguirlo e di interessarsi al tutto, insomma. Senti, io volevo chiederti, sono Francesco, ciao, volevo chiederti una Ciao. cosa che mi incuriosisce sempre un po' con le cose fuori di testa. Aveva segnalato su Boing Bong qualche mese fa, era proprio uno studio, un peperone, sul design di un gioco che fosse stato progettato per evitare la possibilità che si creassero quelle economie secondarie. Che in parole povere significa che la gente poi va a vendersi su eBay, tutto quello che è riuscito a costruirsi nel mondo virtuale. Magari tanta gente non ha idea che esistano queste cose, come anche quel sito che avevo visto prima dell'estate, mi sembra che era praticamente una borsa valori, delle finanze, delle valute di ognuno di questi mondi di videogioco sociale, per cui si poteva cambiare un tot di monete di un gioco con una valuta equivalente per poter passare, entrare in un altro gioco senza perdere tutto il capitale accumulato. Se magari, sai, non so se l'hai seguito, se no passiamo a qualche altro argomento. No, Se... devo dire, ultimamente mi interessavo queste cose, l'avevo visto questo sito, è una specie di banca vera e propria, anche con diciamo con una valuta vera e propria di scambio che cambiava anche di valore a seconda delle richieste era quasi una borsa del denaro, insomma, è qualcosa di molto complesso a livello economico, che dimostra anche come certi mondi sono meno virtuali di quanto si pensi. E sì, è un problema, cioè sicuramente una tematica del gioco di ruolo online, ma tu pensa che, per esempio, c'è Project Entropia, che è tutto un gioco di cui si è parlato molto ultimamente, perché diciamo, la software house che lo tiene su ha venduto un'isola del gioco a un giocatore per 26.000 dollari reali. Che è una notizia che ha pubblicato poco fa su Gamesblog, se non sbaglio. L'ho letta da poco. No, non l'ho letta su Gamesblog. ti becco in castagna, no? Non l'avevo pubblicata perché stavo cercando di provare il gioco, visto che ha una meccanica molto strana e mi piaceva provarlo, insomma, per vedere. Insomma, il concetto di, per esempio, di Progetto Entropia è che cioè, la valuta del gioco è convertibile in ogni momento in denaro. E quindi l'entrata è gratuita, io immagino che il server si funzioni sulla base delle commissioni di scambio tra giocatori sulle aste e tutto quello che è appunto l'economia interna del gioco. E cioè, sicuramente sono mercati anche in espansione. Cioè, ci sono vere e proprie aziende, per esempio in Second Life di cui parlavo prima, che costruiscono cose, che per esempio creano comunità, che creano oggetti che vendono, creano macchine, creano... Sempre all'interno del gioco? Sì, tutto all'interno del gioco. Sì. Io mi ricordo in ultimo online, ma io ci ho giocato veramente, passavo giorno e notte a fare macro per far crescere personaggi, eccetera, che c'erano i tassi di cambio ufficiali di conversione col dollaro, che poi si realizzavano su eBay soprattutto, dei vari shard, cioè dei vari server su cui si poteva giocare. E poi c'erano i cambiavalori che prendevano una certa quantità di denaro da un server e te ne davano un'altra secondo un tasso di cambio su un altro, oppure prendevano dollari, ti davano oro virtuale, eccetera. No, Francesco chiede qual è la differenza tra server. Su Ultima Online era una differenza prettamente geografica, perché c'erano i server localizzati in Europa più veloci per chi giocava in Europa e dove tendenzialmente giocavano gli europei, quelle match. Poi ce n'erano altri un po' più sofisticati. Ultima Online c'erano anche quei server non ufficiali, cioè Ultima Online è un vero e proprio universo, di possibilità narrative, visto che ogni server su cui, diciamo, ci avete, giocavamo noi che non avevamo la possibilità di abbonarci con Origin, erano server non ufficiali e c'erano anche mondi completamente differenti, con mappe differenti, con dungeon differenti, con ambientazioni differenti. Certo. Anche lì c'era un universo di possibilità. Il mondo del gioco online è assolutamente enorme. Sì, la bellezza della Origin era che c'era tantissima gente, quindi aveva appunto tutti questi fenomeni dei siti di aste, delle case, degli oggetti di Ultima Online, le quotazioni ufficiali o meno dei vari oggetti rari, i tassi di cambio, era veramente un mondo. Addirittura c'era chi vociferava di azienducole in Corea che mettevano ragazzi dietro un computer tutto il giorno per creare ricchezza virtuale su Ultima Online e rivenderla su eBay e che campassero. Questo non lo sapevo. Si vociferava all'epoca. E aspettati, forse Francesco voleva continuare il suo discorso. Sì, senti, volevo ritornare invece da un'altra parte, proprio più indietro, perché io come giocatore sono rimasto ancora ai Nintendo, i vecchi palmari, Game & Watch. Addirittura. Sì, io sono ancora un po' rimasto. Per cui volevo chiederti, visto che ogni cosa alla fine ritorna, che coi cellulari si possa ritornare un pochino a questi giochi che erano 2D con tutto un altro, adesso non so che parole usare con voi specialisti, però sono giochi completamente diversi rispetto a quelli che girano adesso su un Xbox o su un qualsiasi PC. Cosa ne pensi tu, o se magari... Guarda, che ci sia un ritorno del vecchio, è assolutamente, cioè del vecchio, insomma, non voglio recare offesa, che ci sia un ritorno del vecchio gameplay, di quello che era anche delle due dimensioni, non c'è dubbio, insomma, ma anche sulle console ci sono un sacco di giochi, per esempio col famoso cel shading, cioè una tecnica 3D che crea delle texture che sono stile cartoon, hanno dei contorni molto, molto netti e che cercano di simulare l'effetto del cartoon. Si hanno gli effetti... Ma tipo Prince of Persia o... No, non so, per esempio ci sono... hanno fatto dei giochi, per esempio Warner Bros., già all'epoca, primo tempo della PlayStation 2, che erano assolutamente indistinguibili dal cartone animato a livello di grafica, come stile. E adesso va per la maggiore, il GameCube si basa, diciamo, sul cel shading, e la maggior parte dei giochi che alcuni addirittura chiamano stylish gaming, cioè che sono giochi profondamente stilizzati a livello grafico, che che hanno fatto la fortuna di GameCube, Zelda, l'ultimo Zelda è in cel shading ed è cartunesco al 100%, ma c'è anche un ritorno delle due dimensioni, anche sia nel mondo dei cellulari, sia sulle console. Ci sono giochi come per esempio Alien Hominid, di cui ho parlato soprattutto su Games Blog, che è un gioco flash, è diventato un gioco per GameCube e PlayStation 2, rimanendo in 2D e avendo questa grafica molto, molto eccessiva, molto stilizzata, che è assolutamente un tuffo nel passato che ogni tanto fa piacere. L'importante è coniugarlo con altro, insomma, non chiudersi nel ricordare i bei vecchi tempi del Nintendo, cose così. Basta fonderlo con nuovo, insomma. Ecco, ti ringrazio che mi hai dato una bella rinfrescatina con gli sviluppi, le cose che stanno crescendo. Magari fammi un bel post speciale su Games Blog, poi me lo mandi nell'email, così mi riesco a ritornare un po' anch'io nel ciclo del gioco, che sono un po' arrugginito. Ascolta, invece, un'altra cosa che mi incuriosisce, praticamente abbiamo parlato poco o niente, come persone, come bloggers, se riesci a farmi una breve storia di Sesta Luna, o se avevi altri web puoi dire blog, insomma. Weblog è una parola un po' sfigata, diciamo. Ma io quando all'epoca blog non mi piaceva, sono sempre rimasto così. Sono un po', come si dice, va bene, vai. No, niente, io ho questo blog che si chiama Sesta Luna, che è un blog, diciamo, un po' in cui si parla un po' di tutto. Sono assolutamente un incostante, quindi non sono mai riuscito a avere una specie di progetto editoriale rispetto al blog, un obiettivo rispetto al blog, quindi si parla delle cose che vengono fatte dal sottoscritto. E non a caso a un certo punto c'erano dei post di videogame, perché mi andava di scrivere videogame. E niente, scrivo di letteratura, a volte di musica, ogni tanto pubblico qualcosa di mio a livello di racconti e di altre cose varie. E studio un anno intero, che per un blog, insomma, comincia a essere un anniversario importante, insomma. Niente, non so che altro dire. Che rapporti hai con gli altri blogger? Come hai fatto ad arrivare a fare trasmissioni per Gianluca Neri, o avere conoscenze, insomma, nell'elite o una delle elite dei blogger italiani? Guarda, cioè, ci accusano di essere conventicola di blogger. Lo siete, lo siete, lo siete. In realtà la radio è stata qualcosa di assolutamente spontaneo, veramente nata... forse non sono la persona più adatta a parlarne, però non, cioè non, è stata una cosa spontanea, una cosa nata dalla chat che è nata per caso. Insomma, ci siamo trovati due o tre a aprire una chat di IRC di Radio Nation, e ormai ci trovate sempre là. È un sistema di coordinamento della radio vera e propria, e poi ci si conosce, ogni tanto ci si incontra, insomma, è capitato anche con la Blogfest. È diventata, diciamo, una piccola realtà della blogosfera. Siamo una conventicola, insomma, come ci accusano. Sì, un pochino sì, dai. Però non ci trovo niente di male, insomma. No, mi sembra abbastanza naturale, poi soprattutto per noi italiani è abbastanza naturale. Anzi, a volte ci accusano di essere troppo, troppo chiusi e che non accettiamo i nuovi arrivati sia in chat sia sulla radio, ma in realtà non è vero. Siamo solo difficili a volte come con le persone. Vabbè, mi sembra normale, come anche un po' tradizione di internet, che ai nuovi arrivati si fa sempre un po' pagare la gavetta. Sì, fa così, si scremano e ne arrivano la metà. Sì, sì, se hanno voglia, se un po' zen, se hanno voglia insistono e prima o poi si fanno le ossa, e se no mollano e non rompono le scatole quelli che sono lì da più tempo. Senti, tornando, io avevo una domandina... No, un commento così su quello che dicevate prima sui giochi, diciamo, classici, old style, 2D, ma mi sono ritrovato oggi, mentre aspettavo il tram, a giocare a Qbert sul mio Sony, che è un bellissimo gioco, peccato che con i tastini del cellulare non sia proprio adattissimo. e ci giocavo quando ero piccolo alla macchinetta della sala giochi. E mi chiedevo se questo ritorno di giochi vecchi, classici o comunque più semplici non sia favorito anche da cellulari sempre più potenti, da tutti gli apparecchi che ci iniziamo a portare in tasca. Non so, come la vedi tu che sei più esperto di No, me nel guarda, campo? prima appunto dicevo, credo sicuramente il cellulare è uno dei motivi, ma non credo sia l'unico. Nel senso che secondo me si sta anche creando uno zoccolo duro, per esempio di ex giocatori che giocavano al Super Nintendo, che giocavano al Mega Drive, che hanno più o meno la mia età e che cominciano ad avere le nostalgie. Cioè anche la mia generazione è diventata una generazione di nostalgici perché anche la mia generazione paradossalmente sta invecchiando, quindi già in fondo l'emulazione di Amiga di Super Nintendo era un fenomeno che già esisteva da qualche annetto, insomma. Io mi ricordo la prima volta che ho sentito parlare di un emulatore, saranno stati almeno 6-7 anni fa. Ci sono tutti gli emulatori di Amiga, oltretutto c'è una grande comunità italiana relativa all'emulazione. E poi ovviamente col cellulare c'è stata l'esplosione, secondo me, mainstream del fenomeno, per cui tutte le software house si sono buttate ovviamente poi a raschiare il fondo del barile, anche riproporre tutto spesso senza nuove idee, insomma. Però comunque è piacevole, è bello comunque rigiocare a... Tu giochi a Cuberti, io stavo giocando a Puzzle Bubble, che è anche una vecchia, almeno per me, una vecchia nostalgia, insomma. C'è un ritorno generale che credo sia di lunga durata, di lungo periodo. Invece sul nuovo, ho visto l'altro giorno su Games Blog un'immagine veramente sbalorditiva della gente in coda in Giappone per le prime consegne della PlayStation portatile, quella che è appena uscita e che arriverà, credo, da noi nei primi mesi del 2 o a metà 2005. Cosa ne pensi? È solo un oggetto bello di design? Perché comunque mi sembra proprio venuta bene. Oppure avendo possibilità wireless e mille altre cazzatine, è proprio tosta. Guarda, il problema, cioè capire se è un iPod, cioè che se ha dei problemi, ma il fatto che è bella, il fatto che ha un bel design, ti fa dimenticare quei problemi. Quindi mi pare c'è un termine per definire questo genere di hardware, tipo un hardware emozionale, comunque con cui acquisti un feeling, come posso dirti, di cui dimentichi anche i difetti, oppure sei una bidonata colossale. Attualmente non c'è, assolutamente non c'è modo di capirlo, nel senso che non si, per esempio, a 24 ore dall'uscita della PSP non si riusciva a capire effettivamente se i problemi di batteria di cui si era parlato per mesi, e cioè il fatto che a un certo punto si diceva avesse soltanto 2 ore di batteria, non si capiva se c'era effettivamente questo problema o no. Bisogna aspettare che si diradi la nebbia, che per esempio si parlava di un sacco di problemi hardware, addirittura di dischi che escono stile Shuriken dal vano dei dischi della PSP. Non si capisce ancora molto bene questo fatto della PlayStation portatile. C'è Comunque troppo. potrebbe essere un cliente scomodo per iPod, perché mi sembra di aver capito che si possono, oltre che ascoltare pezzi di musica, mi sembra anche vedere video. Sì, però assolutamente che abbia problemi in batteria non c'è dubbio, nel senso che credo, cioè almeno a leggere tutti i vari resoconti, si fa una media di durata di batteria di 5 ore più o meno ad audio medio e a luminosità media. Questo per un lettore MP3 è una cosa, per una console portatile. Secondo me diventa sicuramente un problema che poi può anche diventare un motivo per non acquistarla e semmai puntare su un Nintendo DS, che invece è il sistema portatile del Nintendo, della Nintendo. Oltretutto, fondamentalmente, i cavalli di battaglia di entrambe sono bene o male gli stessi, perché il wireless ce l'hanno tutte e due, il Bluetooth mi pare ce l'abbiano tutte e due. Le certe cazzatelle del Nintendo sono bilanciate da altre cazzatelle della PSP. Alla fine, secondo me, ognuno sceglierà rispetto, diciamo, al parco macchine, ai giochi che sono a disposizione. Senti, ma a proposito di Nintendo DS, mi sembra di aver capito che le capacità di multiplayer e wireless siano limitate a persone che sono vicine a quella, cioè a persone vicine in raggio di pochi metri. Non so se ho capito io male, e può essere invece utilizzata via internet. Allora, guarda, io credo che abbiano, no, la PSP sicuramente ha anche il wifi, ha un sistema di connettività che sia di, diciamo, di via radio a pochi metri, sia praticamente di wifi. Nintendo DS non ne sono sicuro. No, te lo dico perché ho letto l'altro giorno da qualche passo qualche blog americano che sono usciti i primi hack per fare il tunneling, quindi incapsulare il traffico del Nintendo DS via internet e di conseguenza poter giocare poi in multiplayer a distanze di migliaia di chilometri. Sì, l'ho visto, c'è questo programma tipo Kelly, tipo il vecchio Kelly, che fa esattamente questo. Non ricordo il sito, ma tanto prima o poi su Gamesblog ne parlo. E comunque, per esempio, il tunneling sicuramente sarà un modo di giocare a internet, ma io credo che sia molto più la potenzialità del wireless a breve distanza sia molto più forte, nel senso che tutto quello che è il multiplayer su una console portatile è gioco casuale, casual gaming, gioco breve intenso, come posso dire. Quindi sicuramente sarà divertentissimo arrivare con un Nintendo DS, con una PSP su un pullman e trovare altra gente che gioca, si fa una partita di 2-3 minuti, anche 10, e poi si chiude lì, insomma. Io non, per esempio, non sono molto convinto da certe idee di multiplayer, per esempio sono uscite con il Nokia Engage, che non mi convincono molto. Per esempio, hanno anche lanciato un gioco di ruolo online permanente per Nokia Engage, scoprivo l'altro giorno, e hanno problemi di lag, hanno tutta una serie di problemi che ovviamente una console come l'Engage non è fatta per il multiplayer, bisogna inventarsi qualche trucchetto per renderla, diciamo, giocabile online. Passiamo un po' al personale. Cosa ti porti in giro in tasca o nello zaino? Console, cellulari, eccetera. Assolutamente iPod, che diciamo è una seconda, ormai è proprio un secondo cuore, non si va in giro senza iPod. Ma ascolti musica, ascolti anche audio, tipo podcast, conferenze, audiolibri, eccetera? No, fondamentalmente ascolto musica. Il podcast non riesco a ascoltarlo in giro per la città. Il podcast, infatti, non capisco perché si chiama podcast. Nel senso che mi capita molto più spesso di ascoltarlo anche solo su iTunes a casa che come, appunto, come cosa portatile. Devo dire, per esempio, che fare carte false per un iPod che lega le radio satellitari, quella, per esempio, mi sembra una funzione. Ho letto qualcosa recentemente oggi, non so se sull'iPod o su un Rio, su, non so. Sì, è una cosa che sta in America. Che stanno agganciando, sì. In America vanno per la maggiore. Per esempio, Howard Stern ha firmato anche per una radio, non so quale radio satellitare, così c'è un mercato dietro. Ti piace Howard Stern? No, così è una cosa che ogni tanto io finisco su queste notizie che restano poi Flashdot piuttosto che Engage o cose del genere. E quindi cosa ti porti? L'iPod poi? Cellulare poi, sicuramente. Cellulare. Ericsson K700i pagato diversi centinaia di euro inutili e niente. Perché inutili? No, perché era appunto uno sfizio per giocare a giochi Java. Questa è una confessione che faccio. La scusa ufficiale era faccio il fotoblog, in realtà era voglio giocare a Puzzle Bubble e a Final Fantasy sul cellulare. A Final Fantasy sul cellulare? Però... Sì, soltanto non è ancora uscito. E anzi, se ne parlerà in seguito, non so, poi ci mettiamo d'accordo. Ne parlate su un mobile blog o ne parlo io, tanto la stessa cosa. Certo. Ma se ne parlava appunto di questo gioco che ho tutto ispirato alla trama di Final Fantasy VII, che adesso sta avendo un po' di revival, visto che finalmente hanno capito che i fan la adorano e che detestano tutto quello che è uscito dopo Final Fantasy VII. Quindi stanno di nuovo scavando nella trama e nell'ambientazione. Ed è un'idea anche molto carina, perché cioè, bisogna fotografare i colori per avere oggetti magici di vario genere. Ogni gradazione di colore corrisponde a un oggetto magico. È una cosa un po' strana. E poi bisogna scambiarselo con gli altri giocatori, insomma, cioè, è interessante. Ebbene, ne parlerai, ne parleremo. No, appena so qualcosa di più preciso ne parlo, certo. Appena arriva in Italia, giuro. Ma invece per i nostri lettori hai qualche gioco o a basso costo, addirittura open source, che comunque non richieda macchine da paura, come spesso sono quelle che devono avere i gamer che vogliono stare al passo coi tempi? Guarda, io ho fatto ultimamente una scoperta molto carina. È un gioco shareware, però un demo. C'è un demo che permette di giocarlo e secondo me, anche rispetto al discorso del vecchio, è assolutamente interessante. Si chiama Starscape e adesso controllo, ma il sito dovrebbe essere starscape.com. Poi ci mandi il link che lo pubblichiamo nelle note del podcast. È un gioco shareware che è una via di mezzo tra il vecchio Asteroids e un gioco, diciamo, una specie di strategico, visto che c'è questo... No, ho sbagliato ovviamente... No, il sito dovrebbe essere www.moonpod.com ed è una via di mezzo tra Asteroids e un gioco quasi gestionale in cui bisogna sia questa navetta sia moonpod.com, sia questa navetta che bisogna upgradare, sia bisogna difendere questa base, bisogna ricercare risorse come in uno strategico più stile StarCraft, insomma c'è un po' un mischio di caratteristiche differenti prese dallo sparatutto classico, dallo strategico, c'è la possibilità di cambiare navetta, ci sono un sacco di nemici, e poi è assolutamente indipendente, quindi come tutte le cose indipendenti credo che andrebbe pubblicizzata e supportata. Ha un costo, se non sbaglio, tutto sommato onesto, ma in ogni caso si può provare e poi... E non richiede una macchina stratosferica, no, schede grafiche pazzesche, no? No, è assolutamente tranquillo. E poi niente, io consiglio sempre di giocare a giochi che adesso hanno qualche annetto, ma che mantengono ancora, diciamo, il loro stile, tipo il primo Half-Life, visto che Half-Life 2 è assolutamente... richiede assolutamente un computer ninja per giocare, quindi però il primo Half-Life rimane un capolavoro e ormai si trova a livello in budget se non a meno, insomma. E tu hai un computer ninja, sì, immagino. Assolutamente sì. Io vergognosamente ho fatto un computer per Doom 3 che poi si è rivelato un gioco abbastanza mediocre, però insomma comprate buoni computer per giocare Half-Life 2 perché è la rivoluzione del gioco di quest'anno, insomma. Io penso che lavoro su un Athlon 750 ormai, vecchissimo. Sì. No, vai. No, e invece passando a giochi un pochino più collettivi, anche magari quelli web in cui si gioca a turno, adesso non me ne ricordo qualcuno, Planetarium forse c'era, giochi un pochino più di scambio con altri giocatori, sempre sull'ottica del basso costo e basso profilo di macchina. Guarda, per esempio mi ha colpito rispetto all'online un gioco che si chiama TheUniversal.net, che è un gioco che si basa su un principio simile a Second Life, soltanto che è assolutamente gratuito e che presenta questa idea per cui c'è questo server centrale che è gestito dai programmatori. E questo server centrale è un universo in cui ci sono tutta una serie di pianeti, sistemi stellari, eccetera. Ogni pianeta è un server gestito da o dallo staff o dai giocatori. E ha delle regole proprie, ha dei propri giochi che si possono fare, si possono, che ne so, ci sono server in cui c'è una specie di gioco di ruolo, ci sono server in cui si fanno dogfight con una specie di biplani. Ogni pianeta è indipendente, ha regole proprie. E poi c'è un sistema centrale che regola il tutto. È assolutamente originale come idea, è gratuito. Non richiede computer spaventosi, ma è un 3D, è in 3D, ma un 3D assolutamente giocabile. Io non so se è già un gioco, ho giocato poco, non, ho dato giusto un'occhiata, ma in potenza è qualcosa di bellissimo e soprattutto è gratuito. Stupendo. E poi vabbè, c'è Anarchy Online che è un gioco invece a pagamento, ma che adesso attualmente regala un anno di gioco in promozione, e quindi se vi registrate fino al 21 gennaio avete un anno di gioco in promozione, fate come me, insomma, registratevi e dategli una possibilità. Ma tu adesso sei nella posizione abbastanza invidiabile di quello che era scusa per passare tutta la giornata e la notte a Esattamente giocare. questo. E questa cosa è Esatto. una cosa bellissima, però ogni tanto torno a essere, diciamo, mi torna un minimo di razionalità, dico, ma io cosa cazzo sto facendo? Ma hai qualche consiglio per chi invece poi sa benissimo che quando si attacca a un gioco e gli piace ci passa giorno o notte della sua vita, non pensa Cioè, altro? nel senso di sopravvivere a questa cosa, oppure un giochi immersivi No, no, no, che... beh, magari tutte e due, visto che no, io lo pensavo come consigli di disintossicazione, tattiche che usi per non farti divorare da un gioco, eccetera. No, io da questo punto di vista sono assolutamente, essendo un incostante, sono assolutamente volubile, quindi l'uscita del gioco nuovo in genere cancella quello vecchio, e quindi anche diciamo fisicamente rispetto allo spazio su disco. E quindi da questo punto di vista la volubilità aiuta. No, invece per noi tipi ossessivi è un disastro proprio. Ma comunque si gioca sempre, cioè io non riuscirei a immaginarmi che non faccio quella partitina ogni tanto a Counter-Strike piuttosto che a, non so, ad Half-Life 2, No, la a... partitina ogni tanto va bene, ma no, il problema è quando torni a casa magari alle 7 e dici: Madonna, come sono stanco. Vabbè, mi rilasso un attimo, ti ripigli che sono le 7 della mattina dopo, c'è luce fuori dalle finestre e devi lavarti e andare a lavorare. Gli americani dicono been there, done that, Sì. che esattamente... Esatto. Senti, direi che più o meno siamo verso il tempo che ci limite, che ci prefissiamo di solito, ma c'è qualche argomento di cui ti interessa parlare alle masse limitate, ma sempre masse che ci ascoltano? No, io beh, faccio la mia campagna per una lettura consapevole di videogiochi, anche di più di concetto, visto che secondo me è sicuramente la cosa importante adesso, è cercare di capire anche rispetto alle, ok, i videogiochi intrattengono, sono anche intrattenimento di buon livello, però ci sono anche persone all'interno del mondo dei videogiochi che stanno facendo qualcosa di diverso, di più estremo volendo. E quindi io dico, insomma, quando giocate, soprattutto quando giocate un certo genere di giochi, cercate anche di vedere anche i tentativi che ci sono dietro di fare qualcosa che sia anche volendo elevato, tra virgolette. Visto che comunque per esempio in Half-Life, cioè, io personalmente ho scritto un breve post di cui tutto vado molto fiero, magari sentite il podcast, andatevi a cercare il mio post su Half-Life 2, ma comunque su Half-Life 2 si sta parlando molto, molto si sta discutendo sul gioco, è critica vera e propria, insomma, si sta facendo un... c'è una rivoluzione in atto sia rispetto alle software house sia anche a chi scrive di videogiochi. Questo mi sembra un buon passo in avanti rispetto al passato, insomma. Ti tengo ancora 5 minuti, salviamo in corner quei pochi lettori non interessati ai videogiochi che hanno avuto la costanza di restare fino a qua. Una domanda magari a cui non hai risposta, ma pensi che i videogiochi, soprattutto quelli di ruolo, quelli in cui ci si confronta con altri giocatori, abbiano un valore in qualche modo paragonabile a esperienze di vita reale e possano un po' formare il carattere, permettere di capire qualcosa di sé e degli altri, soprattutto nell'interazione con gli altri giocatori, oppure è solo divertimento. Guarda, non ne sono così sicuro, nel senso che, cioè, io sono stato e tra virgolette sono anche giocatore di ruolo, diciamo, dal vivo, insomma, di Dungeons and Dragons e di altri giochi, così, insomma, con carta e penna, insomma. E, cioè, io già rispetto ai giochi per carta e penna avrei qualche scetticismo. Il computer in realtà da questo punto di vista, in genere le persone che prendono troppo seriamente le esperienze di gioco hanno poi problemi nella vita reale, No, no, insomma. no, no, non intendo esperienze di gioco in quanto a mascherarsi o crearsi delle personalità più o meno finte o recitate, ma quanto allo scontro di caratteri, alle amicizie, alleanze o risoluzione di conflitti che spesso capita Guarda, di affrontare. cioè, bisognerebbe cercare di capire, non ti do di aiuto, mi cogli impreparato perché non ho mai pensato alla cosa in questi termini, nel senso che comunque cioè, non credo che molta gente la prenda così seriamente. Le persone lo prendono più in senso di alternativa alla realtà, non come. Capito, non Sì, certo. come No, no, no, modo no, di. io non lo intendevo come una palestra o come, non so se hai letto Ender's Game, il romanzo di fantascienza in cui creano questo ambiente dove si allenano, non lo prendevo come una palestra di vita, ma in maniera un pochino più riduttiva, come se una forse piccola percentuale del tempo passato a giocare è anche un'esperienza di vita e di rapporto con gli altri. A me capitava in ultimo online. Soprattutto quando ho iniziato a giocare nella parte di Shard, quella più violenta, dove non c'erano poche regole, magari facevo anche il player killer, che era la cosa più divertente, sempre fatto con molta ironia, di trovarmi di fronte a questi personaggi pilotati poi da persone vere che stavano in giro per il mondo, che avevano reazioni veramente sbalorditive. Quasi come se gli andasse a toccare nel loro intimo più nascosto, proprio agendo in certi modi. E quindi ogni tanto pensavo che i rapporti non sono poi solo così virtuali, ma diventano anche abbastanza reali in questo tipo di giochi. Guarda, giocando a Counter-Strike, a vedere il numero di bestemmie che escono fuori quando uccidi qualcuno, direi ti darei ragione. Però, non so, cioè, forse dipende anche da. Da Per tipo esempio, di gioco. sicuramente, i giocatori americani, per esempio, si immedesimano molto più di noi. Non so, per esempio, leggiucchiavano qualcosa del genere su videogiochi, appunto, sì, c'era un articolo in cui si parlava dell'immedesimazione nel videogame. Per esempio, nei giochi di ruolo c'è tantissima immedesimazione, cioè uno si affeziona anche al proprio personaggio, cosa che per esempio in altri giochi non c'è perché non, la vita di un personaggio in un gioco di ruolo È troppo breve, sì, è molto più lunga di è quella molto più che, lunga, certo, c'è sì. un'affezione rispetto, però non so se poi questa affezione è data, cioè è come se stessi avendo un rapporto con un'altra persona che fosse anche virtuale oppure se è effettivamente un tuo alter ego. Io a volte ho come l'impressione che è più un rapporto di scambio più che un alter ego quello. Potrebbe essere, sì. Beh, comunque è un argomento abbastanza complesso, non so, io. Complessissimo, ci siamo messi in questa cosa che filosofia del videogame, minchia. Sì, o no, poi o l'hai vissuta sulla tua pelle, appunto, in certi tipi di giochi, o se no forse è un discorso un po' È astratto per i molti, sì. incomprensibile. E invece andiamo a argomenti un po' più tecnici. Curi questo blog dove c'è la frequenza di post è molto alta, il contenuto deve essere sempre interessante, nuovo, eccetera. Hai degli strumenti particolari che usi per raccogliere e setacciare la massa di notizie che c'è su web, tipo Feedster, Ma PubSub, eccetera. ovviamente feed aggregator come io uso Abilon, qui mi trovo abbastanza bene. E che anche una versione una versione a pagamento che prima o poi provo. Insomma, non lo conosco, ma è un aggregatore desktop o un aggregatore web? No, desktop. Ah, okay. E ha una versione che oltretutto permette di monitorare i siti, anche senza feed. Ah, bellissimo. Perché... quindi per forum e siti che non hanno feed? Sì, per esempio, non so poi la potenza effettiva, perché era una versione trial, quindi prima o poi dovevo perderci un po' la scienza, insomma, diciamo, ci siamo capiti, insomma. Sì. Però, insomma, non credo che un blog come Games Blog, piuttosto che Mobile Blog, così sia tenibile senza feed, senza aggregatori, insomma. No, certo. Non sarebbe possibile. Per noi sono strumenti di uso quotidiano da un po', invece per tante persone sono ancora un po' misterio, fantascienza. Tu dici, non vendiamo gli strumenti, non regaliamo gli strumenti del mestiere, dici? No, facciamo propaganda. Ah, regaliamo, cioè, no, infatti, giusto. Sì. No, anzi, io volevo partire con questa campagna, a cui credo partirò il primo gennaio, che non ti leggo se non hai un feed, per cui proprio di rifiuto, non hai un feed, non ti leggo, procurati un feed, ne riparliamo. Che è proprio visto che ormai sono pochissimi blog italiani che non hanno feed, non si mettono vergogna della cosa, è una vergogna, insomma. Senti, ma ultimissima domanda, in tema di Natale, che regali ti aspetti e cosa fai? Così magari diamo qualche consiglio a chi ci ascolta. Ma io per Natale desidererei un Nintendo DS o una PSP, ma la vedo abbastanza difficile. E su cosa ripieghi? C'è gente che li ha prenotati nel 2001, più o meno, quindi sono anche ampiamente finiti. Posso solo consigliare ovviamente di magari di regalarsi Half-Life 2 piuttosto che un altro bel gioco di cui ho parlato, che è Chronicles of Riddick, che oltretutto adesso è uscito per PC. Posso consigliare... No, andiamo a vita reale, cosa ti arriva e cosa compri? Ah, non so, quest'anno non penso che assolutamente niente, devo ricomprarmi la batteria dell'iPod. che è un po' il piccolo segreto dell'iPod, visto che dopo un anno si è già cancellato. E poi niente, sarò a Napoli, tornerò alla vita reale, lontano dalla blogosfera e lontano da tutto quello che sono videogiochi e altro. O con una pausa di relax, insomma. Sì, una pausa di relax da tutto. Fantastico, ti ringraziamo di questa lunga chiacchierata, ti passo in sequenza gli altri. Ciao, grazie mille, poi ci sentiamo spesso e presto. Spesso e volentieri. Sì. Ciao Darti, saluto anch'io, ciao, grazie. Ciao. E noi concludiamo questo podcast e volevo farvi sentire, visto che adesso il mixer ce l'abbiamo, e volevo farvi sentire... un pezzo musicale registrato ormai quasi 70 anni fa, è uno dei tanti pezzi che chi naviga un po' su internet e magari ha la passione della radio trova liberamente scaricabili. Questa è una registrazione di Benny Goodman del 37 dicembre del 1922, anzi più di 80 anni fa. No, scusa, ho sbagliato a leggere la data, il 22 dicembre 37. E quindi effettuata incredibilmente domani, quasi 70 anni fa. E questa registrazione la trovate su un sito che è Old Time Radio, poi vi metteremo i link, e come questa ce ne sono tante altre, divertitevi. Benny Goodman and his orchestra, coming to you from the Manhattan Room in the Hotel Pennsylvania in New York City. We move right along as Benny Goodman and the boys break loose with Life Goes to a Party. Se siete interessati a questo tipo di musica, vi piace ascoltare il passato della radio, beh, fatecelo sapere, segnalateci pezzi. Io amo molto questo tema, scandagli ogni tanto la rete, ci sono tutte le vecchie registrazioni di Sherlock Holmes, sia inglesi che americane, ci sono Hillary Queen, tutti i vecchi radiodrammi che hanno fatto la storia della radio. E se vi interessa fatecelo sapere, e poi prossimamente parleremo di questo, parleremo anche di podcasting da pendolari, e vi faremo un bel podcast con brani registrati in Italia e all'estero dalle varie automezzi in spostamento. Arrivederci a tutti e alla prossima.